questo che lo give mal luce signeca nella mia stagia malata savaccia la sorella e è morto e se averrò chi a neve sembra cadermi la sala ma dorme con l'imorto accompagnò Vanella chiese scuore la davuta vi donne nella toia come tornata da quella bocca che nasce monnescere li viermo che piatava si par chi è la mia amice cura na lambo sempre tiene cielo ma Hello, mother.